d'Agostura. Questo è il cammin de Gigi d'Agostura. Questo è il cammin de Gigi d'Agostura. Questo è il cammin. Ah ragazzi, cariata sul. Questo è il cammin de Gigi d'Agostura. Questo è il cammin de Gigi d'Agostura. Questo è il cammin de Gigi d'Agostura. Questo è il cammin. Ah ragazzi, cariata sul colorista. Cariata sul colorista. Allora, ragazzi, sai che ti dice che cambia l'ora del programma? È il cammin di Gigi D'Agostino. Le peu dalle 6 alle 7, ma le dalle 2 alle 3. Da lunedì 5 marzo, il cammino di Gigi D'Agostino, alle 2 del pomeriggio. Ciao, sono Gigi D'Agostino e questo è il mio cammino. Si sente? D'Agostino. La nostra costanza attraversa anche i sassi. Gigi D'Agostino non ferma i suoi passi. Sapiente, è fino. nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Siete sintonizzati sulla frequenza della benevolenza, M2O, M2O, nello studio delle cause e nella successione dei fenomeni. Dei fenomeni. Il cammino di Gigi D'Agostino. Oh, ma sto pezzo. Abitua molto facilmente alle cose. Cose. E poi dopo. Dopo. Ne sei schiavo. Disposizione stabile. Stabile. Della mente. Stai ascoltando la frequenza sbagliata. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Propagando a macchia d'olio, divenendo un emblema sociale e ideologico di alternativa culturale alla globalizzazione. Lento. Lento, violento. E altre storie. Musica dei popoli. Mi sono creato un movimento, uno spazio, perché non ne trovavo uno che mi desse le tensioni che ricerco continuamente. Vibrazioni sensuali, rituale di cura. Domenica pomeriggio, 18 marzo 2007, ore 14. Lento, violento e altre storie. Alcatraz, Milano. Troviamo tempesta, alziamo la testa, una mano sul cuore, danziamo l'amore. È un gesto normale che è contro ogni male. Facciamo rumore, urliamo l'amore. I can't go, no, I don't go, no, I can't go, I don't go. Il cammino di Gigi D'Agostino ogni giorno ti scassa un pochino. E danzatori, chiamate i vostri genitori. Svelti, va. Qui c'è musica che pesta, suona il maestro e roba onesta. Stai a capire? Cammino di Gigi D'Agostino, una buona occasione per diventare tamarro. Da lunedì 5 marzo, il cammino di Gigi D'Agostino, dalle 14 alle 15.

Gigi D'Agostino. La radio a colori. Da lunedì 5 marzo il cammino di Gigi D'Agostino alle 2 del pomeriggio. Alle 2 del pomeriggio. Il cammino di Gigi D'Agostino. We'll be right back.

Ci sentiamo domani. Grazie.